Benvenuti! Benvenuti alla puntata numero 48. Se sto ridendo in questo momento è perché Discord ha aggiunto, credo, dei nuovi effetti sonori per quando si collega la gente in tema natalizio e sono inascoltabili. Quindi dicevo, benvenuti all'episodio numero 48 del nostro Focolare Elettrico, podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E, come dire, puntata particolare oggi, perché ci è uscita molto spontaneamente, è stata proprio un fulmine a ciel sereno quasi. È stato in realtà sentito... un crescendo di feelings. Assolutamente, l'abbiamo sentita proprio provenire dal cuore. Saranno state tutte quelle discussioni di waifu e usbandi di cui abbiamo discusso la volta scorsa, che ci avranno scaldato l'anima. Ma vorremmo parlarvi di quello che, no, di quello, ecco, che attrae noi sessualmente, probabilmente, anche sotto un certo punto di vista, in questa puntata. In che senso? Andiamo con ordine. Partiamo con le nostre tipiche rubriche, oserei dire. E dove vogliamo partire, Jacopo? Hai già delle notizie? Vogliamo parlare di che cosa abbiamo giocato in questa settimana? Allora, ci sono tante notizie. No, allora, tante uscite, vabbè, sto uscendo all'Infinite, quindi aspettatevi che venga completato nel giro di 24 ore, e il gioco dura 25 ore in realtà. Giusto. La campagna, esatto. È uscita una nuova espansione per Final Fantasy 14, quindi congratulazioni a chi è rimasto, diciamo, ancora in vita dopo averci perso miliardi di ore. Tra l'altro credo che mia sorella e coinquilina giochino anche a Final Fantasy 14 di tanto in perfetto, tanto. Perfetto, quindi vabbè, auguri per Endwalker, finalmente è arrivato. Che altro? Cyberpunk a quanto pare ora è bello, ma in realtà semplicemente costava poco e quindi un sacco di gente lo ha giocato per la prima volta. Interessante. No, sì, è interessante, cioè nel senso, capito, un anno dopo ancora il gioco è, diciamo, scarno, nel senso mancano ancora tante feature promesse, tanti problemi ci sono ancora, però molti bug sono stati... Non si dice sempre che le cose migliori della vita sono gratis, quindi... Cyberpunk si sta avvicinando, no? Più cala, esatto, di prezzo, più... Più cala migliore. Di prezzo e più migliore, esatto. No, però, esatto. Vabbè, diciamo che i bug rimasti non sono così, così gravi, i sistemi rimasti, diciamo, molto, molto scheletrici, molto semplici, non sono un problemone, quindi la gente che lo ha provato per la prima volta per questi saldi di Steam, giustamente ha detto, ah, ma non è così male, questo gioco è bello, così, e quindi ha messo bel voto. Io sto ancora aspettando, mi sto ancora preservando per il matrimonio, diciamo, per quando uscirà la patch. Dimmi qualcosa, no? No, sto aspettando che esca la patch per le nuove console, così magari metteranno anche qualcosa in più per PC, risolveranno altre cose. Magari, sarebbe comunque c'è. La polizia funziona adesso, giusto per sapere? O... Marco, che devi fare? Cosa stai pianificando? Sì, più o meno funziona, ma non troppo. Okay. Non funziona in maniera coerente, diciamo. Potrò mettere in atto il mio piano tra poco. Di altre notizie ho da dire che due cose. Ieri la mia rete ha deciso di, diciamo, cadere, di non funzionare, e quindi ha quasi impedito di registrare questo episodio, ma poi oggi per fortuna si è ripresa. Grazie, Vodafone. E nello stesso arco di tempo, diciamo, in quel periodo, per coincidenza, secondo me però qui c'è lo zampino di qualche troll su internet, il subreddit di Halo è stato chiuso. Cioè, io pensavo tipo di qualche divinità, pensavo dicessi... No. Cioè, allora, su Reddit è questo sito, per chi non lo conosce, dove ci sono varie sezioni, vari subreddit si chiamano, varie, diciamo, è come se fosse un forum con un più sottoforum, no? E se conoscete noi e non conoscete Reddit, complimenti. Complimenti perché siete veramente persone molto stabili mentalmente, quindi assolutamente. Buon per voi. Però su questo, diciamo, subreddit di Halo, ultimamente c'è la gente molto sempre più tossica, sempre più che, cioè, ogni post positivo o Wow. negativo era pieno di gente tossica. E tu dici, ma No. wow, un gioco free to play che era la community tossica, non si era mai sentito. Però, diciamo, c'erano anche persone, non solamente persone nuove, ma persone fan di Halo da tempo addietro, che avevano delle critiche legittime, ma come dire, un po' eccessive, mettiamola così, un po' anche ripetitive. E nonostante 343 che continua a rispondere a questi commenti e a rispondere a ogni singola critica del gioco e a dire come miglioreranno e come stanno migliorando, molti, anche giustamente, secondo me, sono abbastanza delusi da alcune scelte e quindi Come bloccato. dire, non mancano mai chi si lamenta, non manca mai Esatto, chi si lamenta. le critiche e chi difende a spada tratta le corporazioni. Ma comunque, detto questo, domani esce appunto. No, scusate, fra 2 giorni per noi, per voi sarà già La uscito da puntata un viene po'. registrata il 6 dicembre. Esatto, uscirà la campagna di Halo e teoricamente anche la versione, diciamo, non beta del multiplayer. Quindi so già che ci sarà una bella pioggia di cose, Insulti, no. insulti. Non so, Quella è una tu avevi parola che qualche. cercavi. Esatto, no, era un'altra parola brutta. Tu che notizie avevi? Che notizie volevi Che portare? notizie ho? Io in realtà questa settimana è stata completamente altrove. Quello che ho letto in giro è che a quanto pare Bobby Kotick se la sta passando male, che fa sempre piacere, che sempre più gente, anche adesso, sempre altri stati, per parlare ancora un po' della Blizzard. Dell'Activision Blizzard, proprio altri stati americani si sono coalizzati contro l'azienda per, come dire, metterla ancora più nei casini, che fa sempre piacere, perché un po' se l'è andata a cercare, un bel po' se l'è andata a cercare. E quindi quello, di solito mi intrattengo così leggendo disgrazie altrui. Perfetto. Perdonate il commento finale. A Ma se parte sono quello, disgrazie per Kotick, non sono disgrazie per hai noi. Scusa. ragione. A parte quello, devo ammettere che non ho ben idea di cosa sta succedendo per il resto nel mondo dei videogiochi in questo momento, che non abbiamo già detto prima, in realtà. Non ho molto altro da aggiungere a questo segmento. È un periodo di fermento, è un periodo di molti awards, Game of the Year, Giusto, signor. effettivamente non sappiamo che aggiungere, e poi sono usciti i Game Awards e non abbiamo ancora commentato. La dovremmo fare la puntata sui Game Awards, io sono Sì, come per gli convinto che. Oscar, quest'anno c'è Come stata. puntata speciale extra proprio Ci di sta, noi ci che effettivamente commentiamo i Game Awards, secondo me ci starebbe un casino, sta. Ci però sta, ci sta. quello sono io, non lo so, dimmi, mi dirai Il poi se sei nostro. libero quella serata. Il nostro Imbo, il nostro bravo ragazzo che è Geoff Keighley, che è quello che organizza i Game Awards, ha fatto un bellissimo. Dopo essere stato insultato, dopo essere stato, insomma, criticato, ha fatto finalmente un post dove condanna Activision Blizzard, dice non verranno coinvolti al di là dei premi che potrebbero Oh, vincere. beh, quello è un po' E fuori dal non suo. esatto, quello che vabbè, esattamente, cioè, non c'entra nulla sui premi, e quindi detto vabbè, per tutto il resto verranno, insomma, lasciati in disparte appunto per rispettare l'attuale, insomma, diatriba in corso. Ha fatto tutto un paese. Grazie, Jeff. Grazie Jeff, che hai capito, insomma, e quindi niente, In realtà figurati. sembra una cosa così. Come dire, cioè, non sembra chissà che cosa, però alla fine, come dire, è un po' come se uno venisse bandito dagli Oscar, perché effettivamente i Game Awards sono l'equivalente degli Oscar, che da un certo lato non vuol dire niente, ma dall'altro comunque non è nemmeno Qualcosina vuol dire, sì. così. Qualcosina significa almeno nel nostro piccolo mondo dei videogiochi, perché se viene tolto dal più grande award show di. Ci sia al momento, insomma, un po' le azioni ne risentiranno, quindi ottimo anche così. Va bene, ci accontentiamo per il momento. Ed è uscito il trailer di Spider-Man Into the Spider-Verse 2 e non c'entra un cazzo con i videogiochi, ma è bellissimo e quindi volevo dirlo. Guardate il mio salotto, è quello che stai. No, non ne parleremo sicuramente, però. E niente, quindi detto questo, Marco, che cosa hai giocato ultimamente? Oh, che cosa ho giocato? Ecco, non ho molta coscienza del mondo esterno ultimamente perché mi sono sfondato letteralmente di DS3 dopo che l'ho comprato agli Steam Sale, agli ultimi Steam Sale. Quindi, signori, se non parlo molto questa serata perché sto giocando a DS3 in questo momento, no. Scherzo, ma Potresti, ti potrei. perdonerei. Chi lo sa? Che dire, signori, io sto vivendo la vita da sabaku in questo momento e no, non voglio tornare indietro, è troppo bello, non fatemi smettere di sognare. Eppure, e poi dovrò passare il tempo prima di Elden Ring, mi dovrò scaldare in qualche modo. Marco, ma che problema c'è? Giocherei a Infatti. Sekiro prima di Elden Ring e poi giocherei a Elden Ring, che problema c'è? Ovvio, stai scherzando? Sarà tutto una... Prevedo ci saranno Poi altre... non ti preoccupare perché poi uscirà Bloodborne su PC. E poi non ti preoccupare perché uscirà Demon's Souls su PC, il remake. Cioè, stai tranquillo, Marco. Non Cioè... farmi queste promesse, Jacopo, perché No, non allora, farmi sperare. io sono convinto che prima o poi o Bloodborne Remake o Demon's Souls Remake arriveranno su PC, sono No, convinto di questo. Bloodborne sono abbastanza convinto anch'io. Cioè, secondo me è impensabile che abbiano fatto il remake di Demon's Souls Vabbè, è stata un'esclusiva PS5. E però poi non vanno più a ritoccare Bloodborne, secondo me è impensabile adesso perché ha avuto troppo successo, è stato troppo, chi lo sa. E poi ormai la PS4 è passata, quindi non è che possono tenersi l'esclusiva. Non so, farebbe. Non so se darebbe fastidio, secondo te, Bloodborne per PS esclusiva PS5 potrebbe essere una possibilità? Non so se No, voi è opinate. possibile, ma come cosa temporanea. Secondo me stanno cercando di mettere roba su PC Può dopo essere, un può po'. essere. Cioè, molti giochi cominciano a mettere su PC dopo un annetto, tipo, o 2 anni, come fanno per God of War adesso. Ci sta, ci sta. Va bene, non possiamo fare altro che Sì. aspettare e sperare in questo momento. Esatto. Io ho voglia di rigiocarmi Bloodborne in 60 fps, sarebbe veramente figo. Madonna, oddio. Poi con la grafica quella rifatta, tipo Demon's Oh, Souls. puoi Cioè, vedere di... l'Ibudella fino a... Oh, se, Dio mio, se lo rifacessero alla Demon's Souls, ma no, quello è impossibile perché è No, ancora cioè troppo io... recente, però No, sarebbe assurdo. io lo spero che lo rifacciano proprio così, così figo. Io Sarebbe bello, ma lo spero. non... quello purtroppo ci credo meno. Tu invece che hai giocato, a parte Halo, ovviamente, di cui sono stato testimone anch'io. Che... Esatto, stavo per dire, ma cosa ho giocato? No, io purtroppo sì, non ho avuto tempo di continuare Disco Elysium, vorrei farlo questi giorni, però uscirà, quindi no. Vorrei anche avere il tempo di provare Into the Breach, ma neanche quello l'ho provato, e quindi Halo Into the Infinite. Breach, non mi sta venendo in Into the mente. Breach è un gioco di strategia a turni, bellissimo, penso che sia... Sono i creatori di FTL che hanno fatto questo gioco di strategia a turni dall'alto, che ha la UX UI migliore della storia, proprio super Ah, leggibile, aspetta, forse ho capito. tutto pixelato. Vabbè, cioè fate prima a guardarvelo Sì, che ho io capito. raccontarvelo. Ah, ok, sì, avevo capito, esatto, era quello tipo Advance War, ma meglio. Esatto. E allo Infinite, che dire, io multiplayer sono sempre più contento. Ci abbiamo giocato insieme e insieme abbiamo fatto la partita più bella della storia, io e te. Addirittura. Quella Big Team Battle dove abbiamo visto il delirio. No, è stata geniale, assolutamente. E no, continua a essere divertente. Ogni playlist ha il suo mood associato. Se sei cazzone non te ne va di pensare, fai BTB. Se invece sei sweaty e vuoi fare, capito, il pro player vai in ranked. No, mi sta piacendo, nonostante i tanti difetti. Uno di questi effetti ne parleremo ora, nella puntata. A Ma me, cioè. C'è stato un leggerissimo miglioramento da inizio beta adesso? Mi è sembrato solo a me, magari sono io che sto avendo. Ma così c'è stato di miglioramento, hanno migliorato la progressione, come funzionano per... Ah, è vero, c'è stato un piccolo aggiornamento. Hanno fatto due aggiornamenti e il secondo è stato quello che secondo me ha migliorato di brutto l'esperienza, perché hanno dato molti più exp per la prima vittoria giornaliera, anche per la seconda, la terza, eccetera. A scalare, e quindi è molto più facile ora progredire, cioè molto più veloce finire il season pass, diciamo. Comunque, beh, questi sono discorsi per un altro episodio, o forse che non faremo mai, si spera. Perché in realtà, vabbè, il problema di cui volevo parlare dopo è un altro, un problema più tecnico. Quindi siamo arrivati al clou della puntata, quello, come dire, alla parte erotica di cui dicevo prima. Esatto, l'arrosto. Arrosto e patate. Bene, quindi come potete notare dal titolo di questa puntata, che è Setup, quest'oggi vogliamo parlare di quella parte un po' più tecnica, un pochino più... come dire, che non... Beh, siamo sinceri, di cui non gliene frega tanto al giocatore medio, e forse noi un po' più... come dicevo prima, infoiate di queste cose, forse anche per via del nostro background di ingegneria, una parte a cui prestiamo leggermente più attenzione, diciamo, e che notiamo quando viene fatta bene e quando viene fatta male. Ho sentito... cosa è successo? Rumori Edoardo... strani da Discord, ok. No, Edoardo sta... è confuso. Ok. Quindi dicevo... da dove vogliamo partire, Jacopo? Perché, come dicevo all'inizio, questa puntata è... no, distrarmi per i rumori di disco. Scusa. No, si finisce pure. Dicevo, questa puntata è nata molto spontaneamente. Raccontiamo la sua storia, visto che ci sta. Eravamo partiti... Ah, è cominciata circa un'ora fa, quando stavo decidendo cosa registrare oggi. Non è fatta troppo, mezz'ora. E siccome è caduto un traliccio e una meteora che ha impedito di registrare ieri, per pura coincidenza nel frattempo è venuta fuori questa idea di parlare di telecamere. Non so chi l'ha detto, io o te, all'inizio. Forse tu l'avevi detto, parliamo no, di telecamere. No, l'hai detto tu, l'hai detto tu telecamere. L'ho detto io? Abbastanza sicuro. Sì. Perché l'ho detto io? Vabbè, comunque non si sa da dove è uscito, stavamo parlando di altro. E poi in realtà volevamo anche fare una puntata sul sound design, però poi abbiamo pensato, aspetta, ma il sound design e le telecamere sono due cose a cui non pensa mai nessuno, quindi perché fare una puntata su cose a cui non pensa mai nessuno? E quindi sono venute fuori cose, insomma, altri argomenti da inserire, tutte cose per cui abbiamo qualcosina da dire, io e Marco, ma... non si meritano una puntata unica, è un macro argomento, sono tutti quegli elementi e tra l'altro sono tutti quegli elementi che non importano quasi a nessuno e che di solito si trovano nel menu delle opzioni, diciamo, dei settings, e quindi questa puntata si chiama Setup, giusto? Alla fine abbiamo deciso... Setup. Abbiamo deciso per Setup. Io vorrei far partire sinceramente te, perché prima... quando mi stavi, come dire, vendendo l'idea delle telecamere, eri partito con il fuoco proprio nel cuore. No, è perché è proprio un fuoco, hai ragione. Cioè, tu mi hai messo... Vai, prego, a te il microfono. Tu mi hai messo questa idea in te. No, allora sono io, non so, vabbè. Mi sembrava che l'avessi detta tu come cosa inizialmente, però forse l'ho detta io. E poi all'inizio ho detto, no, che cazzo dici sulle telecamere? Poi più ci pensavo, più dici, no, cazzo, però effettivamente c'è tanto di lavoro dietro le telecamere. Perché è una cosa a cui non si pensa, però c'è tantissimo codice, c'è tantissimo studio su ogni cosa che può fare e che fa la telecamera. Ovviamente abbiamo ripetuto più volte in altre puntate che già scegliere la telecamera... che cosa inquadra e chi la comanda è una scelta di design. Se tu metti la telecamera in mano al giocatore e metti, diciamo, la telecamera come una prospettiva del personaggio che controlla il giocatore, stai già facendo una scelta sul tipo di esperienza che vuoi avere, no? Perché questa si chiama telecamera in prima persona. Esatto, giusto per dirti, sono proprio dei nomi di categorie di giochi dovuti alla telecamera. Esatto. Quindi già stai dicendo che il tuo gioco è un gioco in prima persona, cioè addirittura c'è proprio una categoria, come dici tu. Poi sono anche giochi... vai pure. No, anche giochi... No, se vuoi fare tu la categorizzazione... Sì, no, stavo giusto dicendo, ci sono giochi... Le due categorie più famose sono i first person shooter, ovvero gli sparatutto in prima persona, e i third person RPG, no? Cioè gli RPG, i GDR in terza persona, il più classico The Witcher, a cui abbiamo praticamente dedicato quasi una puntata qualche episodio fa. Guardando tutto quanto Angela, mi scuso ancora per gli spoiler. Sì, cioè le telecamere più famose sono queste, però ci sono anche telecamere più anonime, diciamo, senza un nome ufficiale. Sono telecamere in seconda persona, ovvero alcuni giochi dove tu non controlli il personaggio a cui è collegata la telecamera, ma ne controlli un altro. E quindi c'è. Cose... L'avresti citata quella. Per forza, cioè ce ne sono pochissimi di giochi. Però sono rari, molto rari, quasi difficile parlare di una categoria a sé, però esistono. Vabbè, comunque esistono, sono giochi divertenti, carini, molto indie. Poi ci sono invece giochi più seri con visuale onnisciente, la visuale del generale, quindi giochi di solito di strategia dove la tua telecamera è una telecamera onnisciente dall'alto che si può spostare più o meno dove vuole. Ovviamente magari parti del terreno non sono visibili perché magari c'è una nebbia di guerra che ti copre lo sguardo, ma tu comunque la telecamera la puoi spostare dove vuoi. E poi ci sono anche telecamere su rotaie, quindi ci sono momenti del gioco o interi giochi dove la telecamera si muove su un percorso prestabilito. Magari tu puoi spostarti e portarti dietro un pochino la telecamera, ma è come se la telecamera fosse su una rotaia essenzialmente. Stavo pensando, scusami se ti interrompo, prima di andare avanti, si può definire un nuovo tipo di telecamera, magari anche adesso il VR, che sta prendendo piede? Sì, sì, assolutamente, sì. Però la cosa che volevo metterci un po' attenzione, non è, ok, esistono tanti tipi di telecamera, cioè così, ma pensate a quanto lavoro c'è per avere una telecamera che si sposta lungo una linea continua, o una telecamera che quando il giocatore la sposta come cazzo gli pare al giocatore non si rompe nulla. Se, per esempio, tu hai un albero fra la tua telecamera e il personaggio perché stai giocando ad un gioco in terza persona, cosa succede? La telecamera rende trasparente l'albero? O la telecamera si mette davanti all'albero ma tipo inquadrando praticamente i capelli del personaggio? Attorno a cosa ruota la telecamera? Quando tu la ruoti, se hai libertà di ruotarla, qual è il punto di pivot, diciamo, il punto che sta davvero inquadrando? Sta inquadrando il personaggio o magari sta inquadrando un punto davanti al personaggio? Magari quando la sposti davanti cambia il pivot? Ci sono tantissime, tantissime cose. Il design dei giochi, a volte, il design degli oggetti che hai, che incontri, il design dei corridoi, il design delle porte... A volte dipendono dalle telecamere e viceversa. Però esistata anche quella, stavo per citare io quello. Cioè, le porte sono una delle cose più rognose anche per questo motivo, alla fine. Ma sono una delle cose che fanno più ridere a me in questo caso. Cioè, che non ci avevo mai fatto caso e adesso che lo so, ovviamente è una di quelle cose che non posso non farci caso ora che lo so. Racconta la storia delle porte, perché è bellissimo. No, vabbè, che non c'è una storia. Cioè, la storia è che le porte... Brevemente, sono la cosa più odiata in tutti i giochi perché devi scegliere quanto è larga, quanto è alta rispetto ai personaggi, come si apre, cosa succede quando premi il pulsante per aprirla, devi premere un pulsante per aprirla, si può tenere aperta a metà, deve essere solo aperta o chiusa, la telecamera dove passa quando ci passi dentro, cioè ci sono un miliardo di decisioni che devi fare e non esiste una risposta giusta, non esiste neanche un gioco, vi giuro, che ha creato le porte in maniera giusta, non esiste una risposta, ve lo posso giurare, cioè per la telecamera soprattutto, perché a me tornava in mente quella storia di Sembra di aver visto un video che parlava di Hitman 3 o Hitman, un altro Hitman della saga, in cui faceva notare come la visuale in terza persona, con la telecamera praticamente sulla spalla dell'agente 47, praticamente imponeva al developer di creare delle porte gigantesche rispetto al modello del giocatore, sì, perché sennò sembrava assolutamente innaturale, sì, sì, sì, se le dimensioni fossero state corrette. Sì, sì, sì, esatto, cioè avevi queste porte altissime, larghissime, che erano tipo il quadruplo, perché Gesù la telecamera andava a sbattere, è come se tu ogni volta che entri in una stanza vai a sbattere contro lo stipite, contro la trave. È una di quelle, sì, cose che uno non ci fa caso, finché non ci fa caso e poi ci fa sempre caso. Sì, sì, sì, ma è così, ma in realtà non è un problema esclusivo della terza persona, è un problema anche in prima persona, perché se decidi di avere una telecamera in prima persona è vero che tanti problemi si risolvono, però ne entrano altri, tipo quanto dettaglio devi avere su certe animazioni, certi oggetti, cosa puoi fare con la telecamera in certi momenti, rendere la fisicità del gioco diventa molto più problematico, cioè renderti realistica la presenza del tuo personaggio nel mondo è più difficile. Insomma, già la scelta della telecamera porta con sé tanti problemi. In più, come dicevamo, la telecamera ha anche altri scopi, no? Perché la telecamera non è solamente l'oggetto utilizzato per il gioco, per il gameplay, per la meccanica, no? Non è una cosa che o inquadra aiutando il giocatore in maniera automatica il gioco mentre il giocatore fa altro, oppure che il giocatore controlla per fare altro. A volte è anche uno strumento creativo per inquadrare qualcosa, no? Mi ricordo tipo in Sands of Time o anche negli altri Prince of Persia, la telecamera ti presentava un po' una stanza, cioè tu entravi in una stanza e la telecamera partiva dal tuo obiettivo in quella stanza, seguiva al contrario il percorso che dovevi fare, un po' dandoti un po' di indizi ma non svelandotelo tutto, e poi tu partivi. Quindi a volte vedi questa telecamera dove, che ok, dici sta interrompendo l'azione, ma tu eri attento perché era il tuo primo approccio ad una stanza da risolvere, ad un puzzle da risolvere, mettiamola così. Quindi la telecamera può essere un aiuto, può essere un momento per dare un accento ad una cosa, e può essere un insieme di appunto scelte registiche, no? Tipo il fatto che una telecamera segua l'azione come se fosse portata a mano, no? Come se fosse un film. Certo. Magari lo devi vendere anche con tecnologia, quindi avere qualcosa che effettivamente registra il movimento di un cameraman finto e che ti vende l'idea che questa sia una telecamera vera, quindi magari la lente è sporca piuttosto che dei comportamenti. Questa, come dire, questo stile molto più registico della telecamera sta, a me ha dato l'impressione che ci fosse sempre e sempre di più ultimamente nei vari giochi, non solo nelle cutscene, perché adesso mi tornano in mente, in realtà lì la Supergiant Games è una delle un maestro in questo campo. Mi viene in mente tutte quelle scene di Hades, ma anche di Transistor prima, che non mi sta venendo. Bastion, grazie. Quelli in cui appunto i paesaggi venivano inquadrati, come dire, quando il giocatore raggiungeva una certa zona. Ce ne sono molti giochi anche in 2D. Credo lo facesse, mi ricordo di scene tipo forse anche in Hyper Light Drifter che ho giocato tempo fa. C'era qualche scena in cui la telecamera si muoveva, come dire, a favore del paesaggio per creare quell'atmosfera un attimo. C'è lì, mi ricordo che c'è, se ci pensi anche, come dire, secondo me anche in molti Super Mario, soprattutto quelli in tre dimensioni, la telecamera, lì la telecamera è un po' un capolavoro perché deve stare dietro a tutti i movimenti di Mario in quei giochi e deve cercare di creare l'atmosfera giusta, cioè è un altro di quelle cose che tutti parlano del movimento di Mario e si dimenticano della seconda parte, che è il riuscire a non far andare fuori di testa il giocatore e cercare di fare il movimento giusto con la telecamera e le varie inquadrature. Quindi no, esatto, hai detto una cosa verissima, la telecamera è talmente importante che fa parte delle 3C. Nei videogiochi c'è questa cosa che si chiama 3C, che sono character, quindi personaggio. Dodge, characters, controls, quindi controlli del personaggio, e camera. Quindi le tre cose più importanti dentro c'è la telecamera. E è come dici tu, è una cosa a cui non si pensa. E i Super Mario, come hai detto tu, sono un esempio lampante, ma anche, cioè, un esempio di eccellenza, insomma, riguardo alla telecamera. Ma ci sono anche altri esempi, secondo me, davvero di scelte fatte che hanno rivoluzionato un'epoca, tipo Gears of War, che ha veramente... Cioè, è una cosa banale se ci pensi ora, ma ha fatto delle scelte, come dici tu, registiche, che hanno anticipato un'era. Perché mi ricordo il fatto della telecamera che si abbassa e che aumenta, quasi come un fisheye, aumenta il campo visivo della telecamera, che è una cosa stranissima nel gioco in terza persona, mentre corri. E comincia anche a vibrare, a muoversi, per darti questa idea di essere nell'azione, di starti, cioè, che ti sta seguendo, che sta cercando di catturare un momento di frenesia. E quindi in mezzo a una sparatoria così ti vendeva bene il fatto di oddio, devo correre per mettermi al riparo, non posso mi fare niente. Mi ha fatto tornare in mente un'altra cosa che ho visto l'altro giorno guardando un video di uno dei, come dire, degli artist, che dei lead artist, credo, che hanno lavorato a Skyrim, che adesso pubblica, come dire, cose su YouTube, tra cui anche piccole, come si dice, dei video riguardo Skyrim, su quello che è stato lavorarci. Mi è fatto venire in mente come raccontava che effettivamente nella corsa del lupo mannaro in Skyrim, per dare appunto quella sensazione di potenza e velocità, era tutto un gioco di telecamera, perché in realtà il personaggio non si muoveva tanto più veloce No, di quanto non facesse. Quindi è incredibile anche lì come viene utilizzata. Mi è fatto tornare in mente questa piccola cosa. No, esatto, ma cioè la storia, insomma, dei videogiochi è piena di queste, diciamo, magie, tra virgolette, con la telecamera, che ti vendono un po' questa sensazione di qualcosa che in realtà non è, o di qualcosa che neanche ti rendi conto che c'è, ma ti sta aiutando a godere di più del gioco. Anzi, Tipo... perché, scusa, se possiamo dirlo... No, aspetta, ti lascio finire e poi aggiungo una cosa, dai, non voglio sempre... No, io volevo solo dire due esempi di cose che magari non vi Vai. siete resi conto se avete giocato questi giochi. Esempio numero uno, God of War. C'è una tecnologia enorme. C'è un insieme di tecnologie dietro al non tagliare mai. Cioè, in God of War non c'è mai un taglio, non c'è mai una scena che cambia. La telecamera è un unico, è un'unica scena dall'inizio alla fine, quel gioco, non taglia mai la telecamera. Per fare una cosa del genere c'è voluto tanto di quello sforzo di tecnologia dietro per fare transizioni da una cosa all'altra. Perché poi, cioè, ci sono tante cose che magari uno non nota, tipo il fatto che i modelli sono diversi, i modelli del gioco mentre giochi non sono gli stessi modelli 3D dei personaggi nei filmati, perché quelli nei filmati hanno letteralmente più ossa, cioè hanno più espressioni, hanno più cose che si muovono, Più hanno ossa più suona dettagli. malissimo. No, però è vero, cioè, è Sì, letteralmente no, così. suona malissimo, però è giusto, è il termine corretto, però per un, come Cose dire, che un mistero. cambiano, luci che devono cambiare, devono diventare di un certo tipo, più precise, più piazzate a mano, animazioni che devono sincronizzarsi fra il gameplay e il filmato, la telecamera che deve sincronizzarsi con dove si trova all'inizio del filmato, il gioco che carica in background, cioè ci sono tantissimi artisti e tantissimi programmatori che hanno lavorato a questa cosa e mi ha sempre meravigliato come pezzo di tecnologia. Un'altra cosa invece meno complessa, ma comunque strana, è una cosa a cui a volte non si pensa, è il fatto che se tu giochi a un gioco tipo, mettiamo Halo, un gioco in prima persona, multiplayer, dove tu hai un tuo personaggio che controlli, tu vedi dagli occhi il tuo personaggio, ma gli altri da fuori vedono il tuo personaggio, no? Quello che tu vedi non è la stessa, non stai guardando la stessa cosa che vedono loro. Esatto. Nel tuo mondo il tuo personaggio non esiste. Nel 99% dei giochi il tuo personaggio è due braccia e due gambe. A volte neanche le gambe ci stanno. Perché? Perché le animazioni che devono venderti il gioco sono diverse e quello che tu vedi è ricostruito in maniera diversa. Quindi in realtà, nella maggior parte dei giochi, se tu potessi, diciamo, staccare la telecamera dal tuo personaggio in prima persona, vedresti solo due braccia che fluttuano, che fanno movimenti strani. Infatti, tipo in Cyberpunk è così, se ci fate caso, ci sono alcuni video di persone che vedono la propria ombra fare cose strane in Cyberpunk, perché lì non si sono ricordati di fare questo cambio. Scusami, dicevi? Cosa volevi dire? No, in realtà ho fatto un collegamento mentale solo ora. Questa puntata può essere molto vista, secondo me, come il seguito, se così si può definire, o comunque l'espansione, tutto quello che non siamo riusciti a dire di quella puntata che abbiamo fatto in live insieme a Edo, Sì, è XBradicoX vero. su Sì. Twitch, se volete andare a vedere, in cui abbiamo parlato, no, della difficoltà nel fare i giochi, di cui la gente non se ne accorge, della quale la gente esterna, no, un po' a questo mondo, non ha nemmeno idea magari di come funziona tutto. E questo appunto, secondo me questo è il momento giusto per ribadire, perché secondo me l'abbiamo citato, mi ricordo che l'abbiamo citato nella puntata. Volevo appunto ribadire quanto i videogiochi, proprio il mondo dei videogiochi, quanto si è tenuto insieme con lo sputo, no? Mi sembra di aver detto nella puntata. Ed è proprio quello, cioè nel senso, ci sono, come dire, da un bellissimo sputo, se così si può definire, perché è tutto un insieme di accortezze tecnologiche, come dire, pennellate di design, di programmazione e di ingegneri che si mettono e programmatori che si mettono lì un attimo, gli viene l'idea, idee balorde per far funzionare un codice come vogliono per quel preciso momento, e poi non importa se si rompe dopo, che poi vanno a creare tutto, come dire, che poi non si nota, ne vanno a creare, no, la magia, come dire, senza, sono tutti gli aiutanti dietro le quinte che vanno a creare lo spettacolo, ma poi restano, come dire, di cui non viene tessuta la lode, le lodi in questo caso. Ed è proprio questo, forse, questa puntata, parlare di fare un po' di luce su tutte quelle piccolezze che non abbiamo potuto dire in quelle forse 2 ore e mezza di puntata, perché non ci sono bastate. Ed è bello anche per questo, secondo me, perché sono cose belle, penso che siano anche un po' delle cose che, almeno parlo per me, ma penso forse anche un po' tu, come dire, mi hanno affascinato anche di questo mondo, di questo mestiere, diciamo, tutte quelle piccolezze, quelle sottigliezze che solo chissà dove guardare se riesce a trovare, diciamo. E niente, volevo fare questo punto, volevo effettivamente fare questa piccola introduzione alla puntata, perché parlando proprio di, come dire, sottigliezze tecnologiche, no? Fare quel far funzionare le cose, mi è tornato anche in mente subito quanto la telecamera molto spesso è una di quelle cose che si va a toccare e manovrare in maniera subdola e ingegnosa, appunto per far solo girare il gioco, perché i cali di frame e il frame rate di un qualsiasi, come dire, videogioco molto spesso si sono da ricondurre a un utilizzo ottimo e perfetto della telecamera. Mi viene in mente subito quel video in cui parlavano di Horizon Zero Dawn. No, Come questo no? non è vero. Sì, Cioè, no, ok, nel senso relativo anche intorno, come dire, non è proprio la telecamera che fa la cosa, ma che è una di quelle cose che, come faccio a dirlo meglio? come dici tu, è una cosa relativa alla telecamera, Che è non è un relativo lavoro alla sulla telecamera, telecamera. quello. Sì, Era ok. quello che intendevo più, nel senso di quanto, ovviamente più la cosa dietro della grafica, però il punto era più quello lì collegato, nel senso per dire quello che si vede alla fine non è esattamente quello che c'è veramente sotto, non so, mi era tornato un po' il collegamento, però sì, effettivamente ora che Jacopo lo fa notare non è proprio la telecamera in sé, però era una cosa collegata che ci stava anche qua. Però non voglio divagare troppo troppo, visto che già divagheremo molto questa sera. E vabbè, quindi questa, diciamo, era una discussione che volevo un po' fare sulla telecamera. A parte questo, ci sono altre cose, di cui possiamo parlare sempre dello stesso argomento. Perché non siamo venuti con solo la telecamera diciamo, di cui quest'oggi. Per esempio la quarta C dell'elenco che faceva prima Jacopo potrebbe essere il K-Sound Design. Esatto, K-Sound K-Design. Perdonami, questa mi era venuta in mente prima e la volevo dire. Bravo. Perché ho tanti problemi. No, effettivamente dicevamo all'inizio, questa puntata è nata molto spontaneamente perché eravamo intenzionati a fare assolutamente una puntata sul sound design e su, come dire, sul ruolo del suono all'interno del videogioco, ma avevamo sempre paura che poi non avessimo abbastanza da dire per riempire un'intera puntata. E quindi ci è venuto spontaneo aggregare insieme più cose. Ma ovviamente, Jacopo, che diciamo del sound design adesso? Non possiamo dire assolutamente nulla in questo caso. Allora, il sound design è un'altra cosa a cui spesso non si pensa, come telecamere, ed è un'altra cosa che, come le telecamere, va a finire in tanti argomenti. Uno di questi argomenti, per esempio, può essere il fatto del discorso dell'immersione, del piazzare il giocatore all'interno del mondo di gioco. Mettiamo il caso di prima in cui tu il giocatore hai affidato una telecamera in prima persona, quindi lui controlla lo sguardo del personaggio e non lo vede, magari non vede neanche i piedi. Se il giocatore si trova a calpestare la neve e il sound design della neve è perfetto, hai un suono di stivali che proprio entrano nella neve in maniera soddisfacente, hai un'impostazione appunto dei canali audio, non so, appunto in generale da dove proviene questo suono, fatti in maniera corretta e tutto, ti vende molto di più il fatto che ci sia davvero neve lì e che tu sia sulla neve. Quindi già avere suoni diversi per materiali diversi che calpesti è un esempio di come il sound design ti cala molto di più nel mondo di gioco. L'abbiamo visto con Halo Infinite, avere il suono giusto nelle mappe come background e avere il suono giusto delle armi le rende molto più godibili. Cioè, secondo me gran parte come posso dire, della presentazione di Halo Infinite è nel sound design, cioè gran parte della soddisfazione nello sparare un'arma è perché ogni arma in quel gioco ha davvero un sound, un design sonoro perfetto. Cioè è tutta appunto quella questione di quanto il suono sia fondamentale per l'immersione all'interno di un videogioco, perché come dire, la storia del cervello che riesce ad analizzare più rapidamente quasi il suono di quanto quello che come dire, si può vedere, di come o comunque di quanto il cervello dia proprio importanza ai suoni che sente quando durante una qualsiasi attività, per cui il fatto di riuscire a creare anche non solo un'ambientazione grafica ma sonora, soprattutto non realistica, però capitemi, diciamo funzionale al gioco, è sempre stato un aspetto fondamentale. Se non sbaglio, c'è stato. Ci sono giochi, come dire, che basano anche non molto del loro successo, però che hanno come componente fondamentale, diciamo, la veridicità del loro suono. Mi viene in mente Tarkov. Se non sbaglio, verissimo, bravo. Tarkov è l'esempio lampante, cioè lui, ci sono quegli audiofili di Tarkov che, come dire, è un gioco che si basa tantissimo sul suono, che tutto sia realistico e quindi di conseguenza il suono deve essere il più reale e vero possibile, perché è anche una meccanica di gameplay, devi sentire se qualcuno si sta avvicinando perché potrebbe arrivarti alle spalle, non ci sono radar o minimappe o cose del genere, quindi poi oltre a Tarkov mi vengono in mente tutti gli horror, che sarebbero molto meno horror se al posto dei suoni veri spettrali di una casa infestata avessero, come dire, suoni fatti col sintetizzatore, per così dire, per buttarla molto lì. Però sì, cioè, esistono proprio giochi che basano molto della loro natura sul fatto di essere, di aver avuto un buon sound design in questo caso. Sì, cioè, al di là diciamo poi dell'immersione aiuta anche con l'appagamento, avere un sound giusto per quando vai a fare del loot o trovi un tesoro o trovi qualcosa che puoi spendere, è una cosa che comunque ti aumenta questo senso di appagamento, di anche a volte purtroppo di assuefazione per alcuni giochini mobile. Però sì, cioè, avere quel suono perfetto, per me suono di Bioshock quando rovisti nei secchi della spazzatura, cioè ha un suono croccante. Molto, è effettivamente molto incredibile, bello. Chissà quanti aneddoti probabilmente developer avevano di magari momenti di gioco, meccaniche che sembravano, come dire, non così eccitanti, fino a che non è stato trovato il sound giusto per loro, perché, e questo lo può confermare, parlava l'altro giorno Sabaku, e quindi può confermare anche lui, per esempio, lui diceva, anche lui si sorprendeva di come sia stato possibile rendere la parata, il parry in Sekiro, una meccanica così fondamentale, proprio utilizzando quel suono che non andava mai a distruggere il momento o andava a rovinare l'atmosfera, hanno trovato il suono perfetto per far funzionare il tutto e quasi diventa quasi musica nel complesso tutto quanto. Stessa cosa si può dire di qualsiasi picchiaduro, gioco di combattimento, spara tutto, che ha quel bellissimo suono che hanno tutti quei bellissimi suoni di impatto che lo fanno funzionare, il suono delle armi nei vari Dark Souls, i pugni in qualsiasi Tekken o Street Fighter o cose del genere. L'impatto, come diceva prima Jacopo, di Halo, delle armi di Halo, ma se non sbaglio, qua sono io che ho poche conoscenze degli sparatutto, c'è sino uno di quei suoni che è diventato quasi leggenda, quasi proprio nell'internet, no? L'hitmark di, ora non vorrei dire, Call of Duty. Call of Duty, infatti, stavo per dire CSGO, ma no, era Call of Duty, che l'hitmark di Call of Duty Mamma mia, è è diventato bellissimo. una cosa a sé stante, quanto, Chi ha come dire, inventato quanto quel suono è un cazzo di genio. Cioè, è bellissimo quel suono. Vabbè, è il suono di proiettili che entrano nella carne. Vabbè, comunque sì, un po' macabra come dettaglio. E sì, cioè, scusami, facciamo esempi, vorrei citarvi questa. Tutti i suoni dello spazio e delle cose in Outer Wilds, vero? complimenti, perché andavano citate, non possiamo fare un episodio su Outer Wilds e poi non citarlo nel sound design, perché sarebbe eresia. Prego. No, questo, quindi può essere catturare qualcosa di reale, tipo degli aerei su Flight Simulator, può essere catturare Hai qualcosa qualche di. aneddoto interessante al riguardo? Non posso. C'erano gli stagisti che col microfono si avvicinavano alle turbine. No, in realtà andatevi a vedere, il video è molto interessante. C'è un video su come hanno registrato i vari suoni degli aerei. L'hanno fatto davvero. Cioè, hanno registrato il suono di alcuni aerei da diversi punti anche dentro. Vabbè. Comunque, può No. essere reale, può No. essere sintetico. Dimmi. Perché è un'altra cosa bellissima, a volte qua, anche a volte, rifacciamo la frase, è bella la dedizione molto spesso, cioè a che punto si spingono alcuni developer per creare, no, il classico archivio suoni, il database di suoni per un videogioco, per tutte, che uno di nuovo sono suoni. Per esempio degli aerei, chissà quante persone possono aver pensato, aspetta, ma perché questo suono è nel videogioco? Perché magari lo senti, accorgi che è diverso da un altro aereo, ma non fai il collegamento che effettivamente c'è stato qualcuno che è andato a registrare quel suono per metterlo dentro un videogioco, perché altrimenti il videogioco non è che il modello 3D che fa in Blender o in Maya poi crea veramente il suono come se fossimo nella vita vera, quindi è incredibile a volte. Vorrei sapere Ecco, ne dovrei cercare se ci sono altre storie del genere, tipo cose assurde di persone che sono andate a registrare database di suoni per fare qualche tipo di videogioco. Te lo confermo. Ma sì, no, non dubito che ci siano, voglio solo... No, io ti dico giusto questo aneddoto perché è una cosa che puoi verificare nel gioco. Praticamente mi si è avvicinato un programmatore che di cui non dirò il nome, e mi ha chiesto se conoscevo una cosa, su come fare una cosa, e ha chiesto, ma che ti serve? Devo praticamente, sto lavorando al praticamente rendere le comunicazioni radio quando la torre è ostruita da una montagna più rumorose. Cioè, se c'è una montagna fra te e la torre di controllo, la radio della torre di controllo, c'è più rumore sulla radio, come nella vita reale. E io l'ho guardato e ho fatto, ma questa cosa è bellissima! E lui si è messo a ridere, sì, beh, cioè, nel senso... E si è messo a ridere anche il tizio. Forse per te che non lo devi programmare. Forse per me, esatto, forse per me che non devo lavorarci. Però, cioè, questo è solamente un esempio di cose che non ci faresti mai caso. Sono dettagli che, cioè, sono davvero importanti, diciamo. Ecco, come dire, ecco il classico esempio del tipo... Il regista in questo film ha messo nell'angolino una copia del CD perché non so, quelle classiche cose che si sentono dire dei film, ovvero di tutte quelle sottigliezze che se uno fa caso trova in una scena, però qui elevate all'iperennesima potenza praticamente. Cioè, qua altro che qua, lo scenografo ha fatto attenzione al dettaglio, il costumista ha messo il fiocco nel posto giusto, qua ci sono stati mesi e mesi di programmazione proprio per creare un mondo realistico nei suoi dettagli, nelle sue cose. Non so, a me queste cose mi piacciono, ma danno quell'euforia che non so, se lo strano. Ci sta. E vabbè, diciamo che per quanto riguarda il sound design, io avrei finito. Per continuare, continuiamo con altre, diciamo, caratteristiche non ben conosciute. E ti hai di continuare. Prego, no, continuati pure. No, no, vai, vai. Vai, l'introduzione stava partendo bene, vai, non volevo interrompere. Era per dire, si parla di accessibilità, UI, tutto quello che un po' riguarda quel mondo che sembra quasi extra gioco, cioè qualcosa che va di contorno al gioco, ma che in realtà dovrebbe essere trattata molto, con molta più attenzione, perché è molto molto importante. Spesso quelle decisioni di accessibilità devono essere prese molto molto all'inizio del gioco, perché vanno a influenzare poi tanti sistemi, tante cose. Ovviamente l'esempio più egregio è quello di The Last of Us parte 2, dove c'erano impostazioni dove potevi colorare tipo i nemici di un colore. No, vabbè, The Last of Us parte 2 ha portato quasi all'estremo, non dico eccessivo, perché non, per certa gente di sicuro non lo sarà, però ha vinto un premio per l'accessibilità per un motivo, ha fatto delle cose assurde per quel capitolo della saga. Cioè, prego. Non, l'usabilità non va vista solamente in termini di ok, dobbiamo fare, che ne so, la modalità per questo tipo di come si dice, colorblind, di non so dice neanche a me adesso, è daltonismo. Daltonismo, esatto, cioè quando uno c'ha un tipo di daltonismo piuttosto che un altro, per persone che hanno disabilità, cioè che motoria, hanno appunto, no, disabilità motorie ma anche visive, cioè hanno problemi, ah, certo, sì, problemi di visivi o piuttosto che uditivi, così. Tutte queste cose che servono, dice, ad aggiustare persone che hanno diverse abilità per un senso o per un altro, non sono solamente, secondo me, per dare più accessibilità appunto in senso di disabilità, ma proprio per dare più accessibilità in generale, perché chiunque ha livelli di abilità diversi, anche relativi ai videogiochi stessi. Ne abbiamo già parlato nella puntata delle difficoltà. per me è una specie di difficoltà, è una meta difficoltà se ci pensi, no? Perché non è la difficoltà del gioco una volta che hai normalizzato i livelli di abilità dei giocatori, no? Perché tu dici, a parità di abilità di un giocatore, la differenza che c'è va normalizzata in base alle loro disabilità o, come dire, voglio dire deficienze, però c'è diversi livelli di abilità o di capacità visive, uditive, cioè, qui si parla proprio di normalizzare anche, come posso dire, non mi sto spiegando bene, però quello che sto cercando di dire è avere opzioni in più di accessibilità non servono solamente a persone che hanno disabilità. Questo sembra okay. Sembra un qualunque, cioè sembra un, ho detto una, un qualunquismo, ma un'ovvietà. Sembra un'ovvietà, però in realtà è una cosa che molti giochi facevano già di nascosto, nel senso che tipo Left 4 Dead o altri aggiustavano già la difficoltà di nascosto, o magari altri giochi venivano già creati dall'inizio con in mente l'idea di fare un gioco che fosse accessibile anche a persone affette da daltonismo o persone che hanno problemi appunto di vista per cui non ci vedono benissimo. Ci sono giochi che partono da fin dall'inizio con quest'idea, ci sono altri giochi che la sposano in corso d'opera ed è un po' più difficile, e secondo me la cosa minima da fare, cioè la minima come posso dire, aspettativa che sia ora dei nuovi videogiochi, è che abbiano un po' di flessibilità nella UI, perché la UI, vabbè, l'interfaccia grafica, quando per esempio leggete un sottotitolo oppure vedete un indicatore su schermo che vi dice quante munizioni avete, quello fa parte tutto della UI, ma ne fanno parte anche i menu, ne fanno parte, cioè tutto quello che non è direttamente inseribile all'interno del gioco. Ora ci sta chi fa skeuomorfismo, abbiamo detto un'altra volta, tipo Dead Space, dove è tutto quanto nel mondo di gioco, oppure i menu, la UI, è tutto dentro il gioco. Però la maggior parte dei casi, secondo me, è un po' eccessivo. Cioè, nel senso, la priorità deve essere la leggibilità dell'azione, la leggibilità della UI. Se poi riesci a farlo all'interno del gioco, perfetto, bravissimo, Dead Space. Tanto stupendo. Di cappello. Tanto di cappello, se riesci a venderlo così. Infatti Dead Space è fatto benissimo, secondo me. Se invece non ci riesci, so cazzi, perché, cioè... Non, cioè, se io, ok, figo, ho la mappa in mano su Metro, però non riesco a leggerla, cioè, o anche in Far Cry, i vecchi Far Cry era così, no? Devi raggiungere questo compromesso, e come devi raggiungerlo anche per quanto riguarda in generale la UX, cioè quanta informazione dai all'utente, dove metti l'informazione sullo schermo, perché questi sono pure dei ragionamenti che si fanno, no? Cioè, tipo, tu giochi a XCOM e pensi, ah, ma uno si sarà svegliato la mattina, avrà messo qua quest'icona. No, c'è un motivo se quell'icona è lì, è in quella sezione dello schermo. C'è un motivo se hanno scelto quel font, se hanno scelto quel modo di mostrare la percentuale per colpire un nemico. C'è un motivo se in, che cazzo ne so, in Bioshock gli slot dell'inventario, delle cose che apri, sono fatti in un certo modo. Cioè, c'è un motivo, c'è un pensiero dietro. A volte... noi siamo qui per dire alla gente che c'è un motivo. C'è un motivo, esatto. A volte è un motivo di merda, però c'è un motivo. Non sempre come dire, un motivo sensato. Infatti mi sa che quella cosa che hai detto, ora che mi hai fatto notare, sui sottotitoli secondo me ci cascano ancora in molti, nel senso... Molto spesso ci sono, ma non sono di certo il meglio che potrebbero essere. Ci sono stati anche giochi, se non sbaglio, di recente che... Beh, uno di quelli, il primo che mi torna in mente sarebbe da tenere per fine puntata, ma se non sbaglio c'era stato subito, come dire, un po' di fastidio alle prime versioni di Death Stranding quando c'era... Oh, sì, ah, ok, ah, non si può dire, non si può dire. Esatto, quando, come dire, il testo... per formiche, ma Un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente anche che dicevi come base UI, UX, io aggiungerei anche come base anche poter rimappare i controlli in un videogioco adesso va molto. È vero. È abbastanza essenziale, una di quelle cose che non è, non, come dire, adesso è sempre più semplice fare perché ormai già anche tutti gli editor commerciali videogiochi mettono a disposizione in maniera semplicissima per rimappare o per mappare più comandi eccetera, vabbè, per... insomma è una cosa semplice che a cui uno non pensa ma che per molte persone può risultare importante. Ho visto, mi era capitato di vedere anche l'altro giorno tipo storie di giocatori che riuscivano a giocare grazie a questa cosa anche se tipo avevano una mano sola o comunque gli mancava un arto, avevano della disabilità e quello effettivamente mi ha veramente fatto dire cazzo, proprio non ci avrei pensato forse da solo già mai. Adesso va molto come cosa. È vero, perché hai ragione, questo perché la UX, che vuol dire user experience, tra l'altro esperienza utente, ha un approccio un po' olistico, cioè non è solamente l'interfaccia utente, è tutto, quindi come dici tu, i comandi ne fanno parte, e dove mettere le cose, il tutorial, far capire una cosa, cioè è una parte essenziale secondo me ormai, avere questa figura mezza, diciamo, psicologica, cioè avere proprio una specie di mezzo psicologo appunto, o full psicologo in alcuni casi, che si occupa di interazione uomo-macchina, uomo-computer, e che si occupa di magari pensare in anticipo alle esigenze dell'utente e farsi quasi avvocato dell'utente, mm-hmm. o portare delle cose uscite in fase di testing, di playtesting, e dire ok, c'è questo problema, come lo risolviamo? Come facciamo in modo che il giocatore capisca questa cosa, o che usi questa cosa, o che anticipi l'utilizzo di questa cosa? Quindi, come dici tu, il poter rimappare i controlli già è tantissimo. E da quanto ne so io esistono anche ormai dei corsi di queste cose. Ricordo che al Polimi c'era qualche studente di design che, se non sbaglio, non so se c'era il corso di... esattamente il corso con quel nome, ma come dire, incentrato sulla user experience, design della user experience. Sì, sì, sì, c'è cioè HC, mi sa, a Trento, mi pare, dove sta la mia ex coinquilina. Per dire... comunque sì. Importante anche questo come cosa. È importantissimo. E a volte, vabbè, ci sono limitazioni tecniche, per cui capisco, cioè alcuni giochi magari non riescono ad avere il fatto dei settings dei tasti perché hanno un meccanismo astruso per avere il controllo di quei tasti. Insomma, mi rendo conto, non sempre è fattibile, non sempre uno c'ha il budget o il tempo, la voglia, cioè la possibilità tecnica di farlo, però è bello che si stia andando sempre di più verso questa integrazione di questi sistemi di accessibilità, perché migliorano l'esperienza per tutti. Cioè, non riesco ad immaginare Halo Infinite senza la possibilità di cambiare il colore delle silhouette ai personaggi. Mm. Cioè, è una parte essenziale. Già il fatto che non si possano togliere mi dà fastidio, però se avessero tolto pure la possibilità di cambiare colore sarebbe un macello. Comunque, vabbè. Non so, avevi qualcos'altro riguardo UI, UX, accessibilità? Mm. Se l'unica cosa che rimaneva da dire era bello anche quando i giochi, come i giochi stanno anche un po' portando avanti, come dire, la tra virgolette un po' evoluzione di questo campo, no? Perché abbiamo già parlato forse nella puntata dedicata all'interfaccia, di come effettivamente alcuni giochi abbiano quasi quell'interfaccia che scompare alla vista, no? Perché c'è anche quell'aspetto che uno non ci pensa, che soprattutto nei videogiochi ci deve essere quell'interfaccia che ti serve quando ti serve, ma che quando non ti serve non ti deve rompere più di tanto le palle. Ed è anche lì, ultimamente lì ci riescono bene, secondo me, nel senso non ci sono mai stati giochi di recente che mi hanno fatto dire che rottura, che scatole, di scatole questo contatore o questo, non lo so, questo cursore qua in mezzo. Anche lì è stata un'evoluzione che, di cui molti forse non si sono accorti, ma che andava citata forse, secondo me. Poi tutto lì, in realtà, purtroppo anche in questo caso non possiamo parlarne molto approfonditamente, perché alla fine tutti questi setting di accessibilità io non ne ho mai usati tanti, immagino nemmeno tu, perché alla fine sei daltonico, Jacopo, e non l'ho mai scoperto questa... Oddio, non lo so, non credo. Non okay. Ho mai fatto i test quelli approfonditi. Perfetto, ma non credo, perché penso ce ne saremmo, te ne saresti accorto anche tu, quindi... No, io ne ho usati alcuni in realtà, sono sincero. Ah sì, interessante, vedi, questo io invece non penso di averne mai utilizzato uno in vita mia, quindi sono molto più interessato alla tua esperienza. Nello spirito dell'onestà intellettuale dirò che a volte mi rompo i coglioni e uso le impostazioni per... Allora, vabbè, aumentare la dimensione dei sottotitoli a volte per forza, perché non ovvio, non li leggo. Hello, siamo umani, voglio dire. Poi a fare una specie di contorno di highlight di, per evidenziare oggetti interagibili in alcuni giochi. Ci sta, ma quello, ecco, quello forse può essere più un esempio. Il fatto che ci sia può essere più un esempio di fallimento da parte dei designer. Come dire, del mondo di gioco in questo caso, o qualcosa del genere. No, beh, no, non necessariamente, cioè, è più una mia mancanza di voglia. Poi a volte, a seconda del gioco potrei volere magari degli indizi più chiari su quello che sta succedendo, tipo, che ne so, avere degli indizi più visivi o più a livello di audio su magari un nemico che mi ha scoperto. Cioè, magari, che ne so, se un gioco non ti dà subito questa informazione, magari la posso accendere io come opzione. Il fatto di avere il cono visivo, cioè, sono tante cose che io faccio di solito per rendermi la vita più facile, perché sono un pigro di merda, oppure che faccio perché magari un gioco lo sto giocando in una maniera un po' particolare, quindi mi servono queste opzioni di accessibilità in più. Tutto qua. Non mi vengono in mente altri esempi al momento, sinceramente. Allora non ci resta che accennare forse un po' l'ultimo argomento di cui è saltato fuori in fase di preparazione alla puntata, ovvero la quinta C. No, basta con sta battuta del cazzo. Avevamo accennato anche magari a una di quelle cose che... Ecco, questo potrebbe essere veramente l'esempio più lampante di... Quando funziona non te ne accorgi, quando non funziona te ne accorgi parecchio. Parliamo di networking qua, ovvero tutta la parte sotto il livello 6 di OSI, si può dire così. Non è vero. Questo sono... Scusate, non volevo essere troppo tecnico. Diciamo tutta quella parte sottostante di cui l'utente non ha idea, forse a volte anche esista, che permette di connettersi a altri giocatori, o perlomeno, purtroppo qua è un po' una critica forse ultimamente, anche più a server di gioco piuttosto che giocare offline. E che, come dicevamo prima, quando funziona, beh, tutto a posto, nessun problema. Quando non funziona, i controller vengono spaccati, le tastiere lanciate contro i muri, eccetera. Che dire del networking? Che in realtà, ecco, forse è una di quelle parti di cui veramente anch'io, nonostante, voglio dire, una laurea in ingegneria, e io ho sempre avuto quella sensazione, sai, del tipo, hai presente quando studi per una verifica e poi sei sicuro che quando il giorno della verifica vai là e sei tipo... C'è la voce nella testa che ti dice no, tu non sai veramente un cazzo, sto giro prenderai due, cose del genere. Ecco, io ho quella sensazione del tipo, hai preso una laurea in ingegneria? Ecco, io di networking, io non penso di riuscire nemmeno a concepire quanto complesso in profondità possa andare tutta la cosa. Ho sempre avuto un po' quella sensazione, non so se ho fatto un buon... esempio parallelo, cose del genere, però è sempre stata una di quelle parti che mi spaventava di più di tutto il mondo dello sviluppo, perché E non oso immaginare È quanto una si possa bella. scendere nella complessità, se uno va a guardare proprio per bene nei più piccoli meandri. Tu Una che bella mi dici? Hai dottura. avuto esperienze diverse al lavoro? Non posso negare. No, vabbè, no. Diciamo che il networking è una cosa complessa. Mettiamola così. L'avete sentito qui prima che da altre parti. Confermo che è un grande mal di testa e, come dici tu, può creare situazioni veramente al limite del paradossale, cose inspiegabili, difficili da riprodurre. Perché, vai, parliamo, in realtà spieghiamo un attimo velocemente in due parole il networking. Tu, diciamo, sei in una macchina locale, cioè il tuo gioco di solito gira su qualcosa che hai tu localmente dove ti trovi in quel momento, una console, un PC, un cellulare, qualsiasi cosa. Ma anche se fosse, diciamo, tramite cloud, con le nuove tecnologie tipo xCloud o Stadia, quello che è fisicamente su un server che fa girare questo gioco, che possiamo considerarlo comunque come se fosse una macchina locale. Per interagire con un'altra macchina si pone subito il problema, perché tu dici: cazzo, ma se... Cioè, chi è di noi due che ha ragione? Perché se io dico che ti ho sparato e ti ho ucciso e tu mi dici di no, chi è che decide chi ha ragione? Qual è la verità? E ci sono diversi, diciamo, paradigmi. Cioè, il paradigma più semplice e più famoso è il server client. Cioè, tu hai una macchina che è il server, che ha la verità assoluta. Può essere una macchina anche headless, tra virgolette, dedicata, cioè una macchina dove nessuno sta giocando, è una macchina che si dedica a far girare il gioco e a detenere, insomma, lo stato reale, lo stato vero, e tutte le altre si limitano a chiedere lo stato attuale del gioco e a mandare un tentativo di un'azione. Questo tentativo poi viene validato. Se la macchina server decide che va bene, che è un tentativo legittimo di fare una cosa in base allo stato attuale, lo fa fare, altrimenti il client ha un errore, spesso chiamato lag, di risincronizzazione, ovvero di riallineamento con lo stato reale del server, diciamo, mettiamola così. Già sto facendo troppo complicata, però essenzialmente c'è una verità assoluta, c'è un'autorità assoluta. Tutti quanti si devono piegare, si devono inginocchiare alla grande maestosità del signore server. Esistono cose alternative. Ora, tutte le cose alternative, tutti i sistemi alternativi al sistema server client sono una roba, di una Pura follia. complessità è disarmante, perché c'è il sistema, allora, c'è il sistema peer-to-peer. Vogliamo davvero vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio Esatto. stasera? Esatto, c'è sistemi essenzialmente peer-to-peer di gente che condivide, ognuno ha un pezzo della verità, sistemi di replicazione che mandano solamente gli input dei giocatori, che poi però è un sistema deterministico, quindi cioè, è un bordello, è un bordello. Sappiate solo che avere un buon bilanciamento fra, diciamo, utilizzo di server e quindi costo, perché i server costano. Avere una macchina dedicata già solamente per organizzare a livello macroscopico, quindi dire solamente: ah, questo giocatore lo metto con questo qua, già costa un botto tenerlo accesa, cioè manutenzione, eccetera. Poi aggiungeteci il costo di sviluppo e di manutenzione di sistemi così complicati per non averlo il server, comunque è costoso in ogni caso. Se ci aggiungere a tutto questo una sana dose di gente che gioca dalla cabina in montagna col piccione, che manda i messaggi col piccione, e che quindi in qualche modo fai giocare, che fai? Non li fai giocare solo perché c'è una connessione brutta? No, dai, discriminazione. E quindi accomodare pure quello. Poi c'hai problemi con gente maligna che quindi sfrutta delle falle nel sistema per barare, sono i famosi cheater, che andrebbero buttate in un pozzo e chiusa sopra con i chiodi l'ingresso del pozzo. Ok, No. No, vabbè, non è vero, però dico... Mi sono spaventato un attimo. No, no, non ho simpatie per i cheater, mettiamola così. Però vabbè, ci sono tante altre considerazioni che si devono fare e ci sono a volte dei malfunzionamenti talmente egregi e cioè che tu pensi, cazzo, ma come hanno fatto? Però è talmente misterioso come funziona, è talmente casuale. Tipo, per esempio, Halo Infinite ha un grosso problema di desincronizzazione. Cioè, essenzialmente, Halo Infinite attualmente ha un problema per cui a volte la posizione del personaggio sul client, ovvero sulla sua macchina locale, del giocatore che lo sta giocando, e la posizione del personaggio sugli altri giocatori, chiamiamoli server gli altri, è molto diversa. C'è un video che gira ora di un tizio che, secondo il server, è da una parte della mappa, secondo lui è da tutt'altra parte, caduto di sotto e dovrebbe essere morto, ma non è morto perché? Perché secondo il server è ancora al sicuro da tutt'altra parte della mappa. Quindi il server comanda tutti, giusto? Il server comanda, a quanto pare non abbastanza. Che poi ovviamente c'è un sistema per bilanciare le due cose, tipo in Halo Reach mi ricordo che avevano fatto questo compromesso, ovvero che tu, mi ricordo che premevi il grilletto e dopo un po' l'arma si ricordava che doveva sparare. Cioè, praticamente, cioè, Halo Reach aveva risolto introducendo il lag lato utente, cioè tu come giocatore sul tuo schermo vedevi le cose succedere dopo. Perché? Perché così le vedevi succedere in maniera sicura, perché dici più tempo aspetti e più sei sicuro che la tua situazione è quella reale del server, è quella, come dicevamo prima, la verità assoluta, accettata, no? Quindi se tu premi il grilletto... Filosofica, la verità, esatto, assoluta. Se tu premi il grilletto e aspetti un po', non fai sparare subito l'arma, giustamente hai più tempo di scoprire che in realtà l'arma non dovrebbe sparare perché sei già morto, quindi... tutte queste situazioni un po' divertenti su Halo Reach, mi ricordo, però è una situazione più accettabile rispetto, mi ricordo, ad Halo 3 come contro esempio, dove tu magari facevi la tua scampagnata, partivi, no? Ah, adesso vado lì e faccio questo, prendo quest'arma, così, e poi all'improvviso ti ritrovi appunto a capo. Cioè, immagina, tu scali una montagna e improvvisamente c'è tipo un risveglio e sei tornato all'inizio, no? Cioè, non è bello, capito? Cioè che tu ti vieni teletrasportato in giro, cose che hai fatto vengono annullate. Cioè, è una situazione brutta, quindi era un compromesso. Come anche i sistemi di Halo Infinite sono dei compromessi, e quindi è tutto un fatto di bilanciare la reattività con la, come posso dire, realtà, la verità assoluta, e arrivare a un sistema che sia giusto ma anche reattivo. Cioè, bello da giocare, insomma. E quindi, Jacopo, perché non possiamo, perché i developer non mettono mai il multiplayer nei giochi, porca miseria? Cioè io sono gli utenti che chiedono il multiplayer, però Vivera continuano a rifiutarsi, ma veramente che bastardi. Poi gli diamo anche i soldi, ma ti rendi conto? Madonna. Voglio dire, c'è riuscito Halo a mettere il multiplayer, perché non possono metterlo anche gli altri? Dai, su, Madonna. Veramente. Questa, come dire, in caso non si fosse capita, era una delle lamentele che ha fatto partire, come dire, che si sentono di più in giro e che magari diventate quasi a livello di meme ormai, per chissà un attimo come funziona tutta la cosa. Ora anche voi lo sapete, quindi... No, vabbè, cioè, sti giorni ho letto tanti di quei commenti di gente che non sa di che cazzo parla, cioè, nel famoso subreddit di Halo. Vabbè, scusate. Io, come dicevo, in realtà non saprei bene cosa aggiungere a questa discussione, perché, come dicevo, è talmente grande, è talmente impossibile sapere che cosa c'è dietro, molto spesso, a tutti i vari sistemi. Quindi, ecco, concludo dicendo questo. Noi personalmente, forse Jacopo conosce qualcosa del posto dove lavora, ma io non so di sicuro nulla riguardo come studi slash programmatori abbiano risolto vari problemi causati dal networking, scusate, causati dal networking, ma sappiate, rendetevi conto, che si possono definire maghi, no? Un po' stregoni che scrivono incantesimi, cose del genere, e più o meno ci siamo, penso che questa possa essere la similitudine più che più ci si avvicina, no? Per persone tipo wizard di livello 20 che parla lingue antiche sconosciute al resto degli esseri umani, ci può stare. Che ne dici, Jacopo? Si avvicina un po' come descrizione o... Ok. Quindi se c'è lag in Halo, aspettate un attimo prima di mandare minacce di morte ai developer. Però solo in quel caso, negli altri va bene, per tutti, esatto. Gli altri va benissimo. Ok. Io non saprei che altro aggiungere, perché in realtà, di nuovo, non voglio tornare a fare puntate elenco con noi che diciamo vari aneddoti, tutti gli aneddoti che abbiamo visto. Ne metto solo uno qua, se vogliamo parlare di dettagli. Andatevi a cercare online tutti gli ascoltatori, perché di sicuro ci sono video che lo spiegano molto meglio di me. L'algoritmo per calcolare rapidamente l'inverso della radice quadrata su Quake 3, perché secondo me quella è poesia in linee di codice, però. È vero! No, cioè, allora, se capite qualcosina di programmazione, ma in realtà neanche tanto, cioè proprio il minimo sindacale, andatevelo a leggere perché è bellissimo. Quella cosa lì mi è rimasta proprio impressa nel cuore. Mettiamo un link nella descrizione dell'episodio, un qualche video, qualcosa che lo spiega, perché quella è poesia, io non so come altro descrivere, è poesia. Se ritrovo il link all'articolo originale dove lo spiegano bene, assolutamente lo... Dobbiamo metterlo, quello, perché... È poesia. Ed è uno degli esempi che dici, cazzo, ma come facevano a far girare una roba del genere? Così. Ecco, con tanto, come si dice, tanto dolore. Ah, mamma mia. Va bene, dai. Abbiamo un qualche momento finale, o... A questo giro è difficile. Io qualcosina forse ce l'ho, da qualche dettaglio da citare. Dimmi tu. Vai. No, mi aspettavo il catch you waiting. No, cioè, allora, volevi fare quindi il momento con Gima? Ah, non lo so, tu avevi ancora da aggiungere, perdonami, non siamo mai chiari su questa cosa. No, io pensavo che tu avessi qualcosa da aggiungere. Per quello... No, io dicevo, ero insicuro sul momento Kojima, ma mi rendevo conto che qualcosina su Kojima ce l'avevo da dire. Davvero? Un paio di dettagli, così. E allora aspetta i prossimi 3 secondi. You're waiting, huh? Ok. Hai sentito, spero? Sì, si è sentito, okay, abbastanza. E... In Metal Gear, oddio, Metal Gear Solid 2, c'è il ghiaccio nei bicchieri che si scioglie. Tutto qui. Io volevo, per dire, a volte, quando dicevamo prima della follia che alcuni developer contro a cui vanno alcuni developer, stato qualcuno che nel team di Kojima si è messo a fare a programmare i cubetti di ghiaccio che si sciolgono nei bicchieri, che ha, come dire, praticamente quasi creato un sistema di rottura per i vetri nel gioco, che è quasi dinamico, non credo sia dinamico, ma quasi, e andava fatto notare. Mi è tornato in mente mentre parlavamo tipo dei suoni registrati degli aerei, ho detto che questo non lo diciamo. Non so se volevi dire qualcosa anche tu, perché alla fine può sapere le sottigliezze tecniche del lavoro di Kojima. Sono stati molto sempre chiusi in realtà quelli da Konami sul processo dello sviluppo, quindi Ma no, in realtà ci sono tante sottigliezze che vengono fuori giocando, tipo il fatto che ogni superficie dove Snake può dare il pugnetto per far avvicinare i nemici ha un suono diverso, in base al tipo di materiale di quella superficie. Il fatto delle interfacce, diciamo, di UI su Metal Gear Solid 5 fatte in maniera olografica, però comunque retro, fatte in un certo stile, il fatto della telecamera in Metal Gear Solid 5 che si muove in maniera realistica, che mi ricordo all'epoca in realtà, quando uscì Ground Zeroes, che è il prequel di Metal Gear Solid 5, era tanta roba, cioè io sinceramente non ricordo un gioco così letteralmente cinematico come Ground Zeroes. Non so se tu, Vabbè. cioè, a me ha fatto scoppiare il cervello il trailer quando l'ho visto la prima volta. Ma sì, cioè, alla fine è pieno di questi dettagli, non solamente nel sound design o nella telecamera. È pieno di dettagli, è pieno di cose, di problemi risolti di cui neanche ci rendiamo conto perché sono sempre stati giochi suoi molto polished, molto rifiniti, molto, Vabbè, sì. cioè letteralmente proprio lucidati finché proprio non usciva, non cominciava a uscire l'olio da, cioè. Quando riusciva a finirli, erano finiti bene, proprio bene, bene, bene, inteso. Quelli veramente finiti erano veramente tanta roba in quanto fatto di polish e, come dire, rifinitura dei dettagli. Anche quelli che non ha finito, dai. Una Erano non finiti, prima ma. parte di quelli che non ha finito, sì, dai, ci sta. Va Va bene, bene. quindi probabilmente siamo arrivati in chiusura. Stiamo già finendo. Stiamo finendo, non Ah, penso di sì, aver stiamo detto finendo, altro. sì. Quindi, che altro dire? Ora che sapete cosa c'è, un po' di più, che cosa c'è dietro tutto quello a cui vi capita di giocare. Fermatevi un attimo prima di insultare la mamma di qualche povero programmatore che magari ha fatto, non so, non ha implementato una cosa esattamente in maniera perfetta. E ripensate a noi che siamo qui a raccontarvi sempre di queste cavolate. Quindi grazie ancora per averci seguito. Io ero Marco. Io sono ancora Jacopo. E continuate a giocare. Ciao ciao.